L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Ladies and gentlemen, sta per entrare in scena l'ospite d'onore. Ecco a voi Lazzaretti! Adesso le faccio una domandina facile facile, eh? Ma professore, io non capisco perché lei è così ostinato. Ma perché mi deve promuovere? Che c'è? Non stiamo bene insieme? Lazzaretti, ma che dice? La prego, la scongiuro, la imploro. No, no, professore, no, non faccia così. Su, mi commuove. E in fondo che è? Un esame, no? Ben ritrovati da Anna Migliorati. Qualcuno di voi avrà riconosciuto magari il tuffo nel passato. Esame di maturità di certo sui generis per questo 2020, ma comunque un rito di passaggio. E poi che si fa? L'allarme che arriva è quello di un calo anche netto delle immatricolazioni nelle università italiane. Avremo meno studenti universitari iscritti al primo anno a settembre. Ma come abbiamo raccontato altre volte, dietro c'è tutto un mondo anche economico. Come sempre però cominciamo con la nostra storia che ci porta al centro dell'emergenza, perché andiamo a Bergamo. Con noi il presidente del Comitato regionale dell'Università della Lombardia, il professor Remo Morzenti Pellegrini, rettore dell'Università di Bergamo. Benvenuto. Buongiorno. Le università lombarde hanno affrontato, in particolare la vostra, quelle di Bergamo, momenti veramente difficili. Innanzitutto le chiedo, ci racconta un po' come sono state le prime ore, le prime decisioni? Il 22 febbraio scorso, prima di qualsiasi decreto o ordinanza, le università della Lombardia hanno deciso di sospendere le attività didattiche e le hanno immediatamente trasferite a distanza, perché nella regione Lombardia contiamo su circa 300.000 studenti, quindi era impensabile far spostare gli studenti all'interno da e per una regione che non lo e voi siete, poi lei in particolare, voi siete a Bergamo, quindi erano anche le ore più difficili per una città. Siamo stati al centro di una tempesta indescrivibile, come dire, la cautela, la prudenza e l'incolumità è stata la stella polare. Poi devo dire anche che sembrerà strano, ma la strumentazione digitale ha avvicinato ancora di più la nostra comunità. Ci siamo quasi sorpresi tutti del fatto che gli strumenti li avevamo e le capacità le avevamo. Io come docente avevo un retaggio culturale, indubbiamente, anzi quasi una diffidenza dell'utilizzo della strumentazione digitale. Mi sono convinto che questa è una strumentazione indispensabile, non ci trasformeremo mai, lo sottolineo, in una università telematica, perché è imprescindibile il rapporto in presenza. Tuttavia, l'emergenza ci ha fatto notare in modo emblematico che gli studenti hanno una capacità di reazione e lo devo dire anche una grande responsabilità, una maturità, perché hanno subito colto l'opportunità di essere collegati tra loro e con i rispettivi professori. Ma devo dire anche i docenti. C'era questa canzone che si intitolava Notte prima degli esami, no? Ecco, qui noi abbiamo vissuto anche alcune notti prima della prima lezione da parte dei docenti, perché io ho assistito agli inizi di tante lezioni di tanti colleghi che si sono cimentati, si sono messi in discussione. Fenomeno straordinario, studenti che hanno perdonato alcuni professori per i loro inizi un po' titubanti, professori che hanno ovviamente perdonato a alcuni studenti che non sempre sono stati reattivi. È stato un patrimonio che dobbiamo indubbiamente salvaguardare anche per il futuro. Si è detto che anche questo è stato uno dei termometri della resilienza di questi territori. Io ho invitato i miei studenti a essere resilienti a metà, un 50% per superare questa situazione di emergenza. Nel nostro territorio noi abbiamo avuto famiglie devastate, quindi studenti che ci hanno da un lato chiesto di implementare l'attività didattica online, altri che ci hanno invitato ad abbassare il carico didattico. L'altro 50% della resilienza invece da riservare per il futuro. Attorno alle università lombarde, quella di Bergamo ma anche tutte le altre che lei poi rappresenta, c'è un gran numero di studenti che arrivano anche dalle altre regioni. La Lombardia ha record di studenti fuori sede. Ora per il prossimo anno come ci si muove? Il primo semestre del nuovo anno accademico in parte ancora a distanza. Il sistema delle università della Lombardia rappresenta un unicum, lo posso dire anche a livello europeo, ci sono 14 università che rappresentano circa il 20% del sistema universitario nazionale. Il vero pericolo è quello di non considerare la conoscenza come l'antidoto per una sfida che ci vedrà ancora tutti dalla stessa parte. Grazie allora per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. Notte prima degli esami, come ci raccontava il rettore di Bergamo, questa volta per i docenti e per il sistema università. E non è un timore infondato, non crediate, e non riguarda solo noi. Si prevede una perdita del 15% di immatricolazioni per le università americane nel prossimo anno accademico. Tradotto, anche senza contare il fattore umano, in 23 miliardi di dollari di ricavi in meno. La cifra potrebbe raggiungere oltre 46 miliardi se si considera anche la perdita di ricavi aggiuntivi da servizi per studenti e professori, l'housing, le mense, le biblioteche, i servizi ricreativi. E un altro paese a fare duri conti con le minori iscrizioni nel paese e dall'estero è anche la Gran Bretagna. Numeri che riguardano anche noi. E allora facciamo i conti. Saluto con noi Pier Giorgio Bianchi, Talents Venture. Grazie, buongiorno. Paura fondata è la riduzione di iscritti nelle università italiane. Siamo andati ad analizzare quelli che potrebbero essere gli impatti di una riduzione del PIL sugli immatricolati e vedendo quello che è successo nelle crisi del 2008 e del 2012 abbiamo stimato che ci potrebbe essere una riduzione di immatricolati fino a 35.000 unità. E tutto questo si traduce già subito banalmente in una perdita consistente già solo in quote di immatricolazione. E anche in una perdita di gettito da parte degli Atenei che negli ultimi anni, come abbiamo già raccontato in diverse circostanze, vivono sempre di più di quelle che sono le rette universitarie. Abbiamo stimato che ci potrebbe essere una perdita di circa 46 milioni di euro. A questo ovviamente si somma la perdita, che sì è vero, è puramente teorica, ma che è fondamentale per un sistema paese di persone formate. Sì, e lì noi come Paese Italia scontiamo già il fatto di essere nella parte bassa della classifica dei laureati in Europa, solo la Romania fa peggio di noi. C'è però anche dietro anche un'altra economia ed è quella degli studenti che transitano da una regione all'altra. Quanti sono? Dove si muovono? Lombardia sicuramente leader ed è la più colpita. Anche questo bacino è destinato a ridursi? Sì, principalmente questo bacino è destinato a ridursi. Se all'estero, diciamo dal punto di vista di contesto internazionale, la preoccupazione è puntata su quelli che sono i flussi di studenti che si spostano da un paese all'altro. Noi all'interno dell'Italia circa il 30% degli immatricolati si immatricola in una regione diversa da quella di residenza. Gli studenti sono concentrati principalmente negli Atenei di Bologna, Ferrara, quindi Emilia Romagna, e poi abbiamo le regioni del nord con Lombardia e Piemonte, il Politecnico di Milano, Torino e la Cattolica. E sono queste quelle che rischiano una penalizzazione maggiore? Sì, diciamo sicuramente sono gli Atenei che sono più esposti a questo rischio, avendo una maggior parte di immatricolati che viene da fuori regione. Questo per dire che le perdite, tra virgolette, del sistema università sono una parte per le immatricolazioni e una parte per tutto l'indotto. Qui il conteggio a dove arriva? Il conteggio arriva, stimiamo nell'essere di queste 35.000 unità, otteniamo quella perdita di almeno 46 milioni di euro mancanti dal gettito. Dopodiché ci saranno tutto l'indotto, come dicevi, quindi nel caso in cui gli studenti fuori sede, studentati, alloggi, libri e così via. E poi le mense, tutta la parte ricreativa degli studenti e poi quant'altro, immagino. Sì, sia da un aspetto economico, quindi essendoci una contrazione del PIL, una contrazione della ricchezza del paese, questo ha un effetto sulle famiglie che avranno più difficoltà nel decidere di mandare i propri figli a studiare. Il secondo effetto però è un effetto anche sanitario, quindi dove gli studenti fuori sede sono più esposti, perché ci potrebbero essere sia una paura nello spostarsi da regione a regione, ma sia anche delle limitazioni in questi flussi, e quindi un'ulteriore riduzione potrebbe arrivare da questo effetto, non sottovalutando però che dall'altra parte sia un rischio ma potrebbe essere anche un'opportunità per quegli atenei del sud Italia, nel meridione, che sono regioni dalle quali c'erano più studenti che si spostavano verso il nord, potrebbero nel prossimo ciclo di immatricolazioni magari attrarre qualche studente in più rispetto agli scorsi anni che decide di rimanere in regione per studiare. La via potrebbe essere il doppio binario in presenza e da lontano? Sì, questo qui risolve però, come menzionavamo prima, solamente uno dei due problemi, quindi l'effetto sanitario nel caso in cui non ci potranno essere assembramenti o spostamenti. Il modello online-offline andrà a risolvere questa problematica. Rimane scoperta quella inerente al problema economico, quindi lì si dovranno mettere in piedi dei sistemi interessanti e innovativi per sostenere l'investimento delle famiglie. Quanto pesano le università telematiche e quanto queste invece potrebbero crescere? Sì, al momento gli immatricolati nelle università telematiche sono comunque ridotte, anche se in valore assoluto, però il trend è quello interessante perché negli ultimi 10 anni gli immatricolati si sono triplicati, potrebbero crescere ancora di più. Una considerazione, l'altra considerazione è da vedere come però reagiranno ad una maggiore competizione da parte degli atenei tradizionali. E naturalmente con un tipo di didattica molto diversa. Esattamente, perché essendo stati obbligate l'università in questi mesi a digitalizzare la prova didattica, adesso diciamo il canale di distribuzione diventa quasi uguale, la differenza la faranno i contenuti. Grazie allora per essere tornato con noi. Grazie, buona giornata. Radio24.it, l'economia delle piccole cose. Potete riascoltare i nostri podcast perché noi cambiamo e l'economia cambia e ci cambia. Ancora un saluto da Anna Migliorati, vi aspetto alla prossima.